si fa le serate col joystick, chi si rifà le arcate col bo-ostic. Sulla mia agenda ci appiccico un po' ostit con scritto: mettiti il mascara, puttanella. Segui il mio tutorial se vuoi essere più bella. Mettiti il mascara, puttanella, puttanella. Prima pirandello, ora invece pirandella. Mettiti il mascara, puttanella, puttanella. Mettiti il mascara, mettiti il mascara. Mettiti il mascara, puttanella. Passo dal trucco al gioco virtuale, come volessi metaforizzare lo strano modo che abbiamo di approcciare con questo mondo non troppo reale. Segui il mio tutorial se vuoi essere più bella. Mettiti il mascara, puttanella, puttanella. Bella questa traccia, puoi passarmi la cappella. Mettiti il mascara, puttanella, puttanella. Mettiti il mascara, mettiti il mascara, mettiti il mascara, puttanella.